Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, una buona giornata a tutti da Deborah Rosciani. Lo ricorderete benissimo, quando in settembre è scoppiato il caos intorno al fallimento della banca americana Lehman Brothers, ci siamo cominciati ad occupare, come hanno fatto molti media, dei risparmiatori italiani che ne hanno subito le conseguenze. Abbiamo scoperto che erano parecchi, fra titolari di obbligazioni emesse da questa banca e titolari di altri strumenti di investimento collegati a Lehman, come polizze vita di primarie, compagnie di assicurazione italiane. È passato qualche mese, la situazione non è cambiata molto dall'ultima volta che ce ne siamo occupati a metà dicembre. La sorte è ancora molto incerta per gli ex obbligazionisti, un po' più chiara, anche se bisogna vedere se è soddisfacente, per i sottoscrittori di polizze vita agganciate a titoli Lehman. La gran parte delle compagnie italiane che ha venduto questi prodotti ha proposto, secondo dinamiche diverse, il risarcimento integrale delle polizze mano a mano che arriveranno a scadenza, ma per qualcuno ancora, come dire, queste proposte non sono molto chiare, soprattutto i risparmiatori non sanno se accettarle o meno e intervenire contro la compagnia in qualche altra maniera. In ogni caso, tra l'altro, ieri la questione è stata anche al centro di una, potremmo dire, pittoresca manifestazione davanti alla Consob, organizzata da una grande associazione dei consumatori, perché anche queste continuano a richiamare l'attenzione delle autorità intorno alla sorte di questi risparmiatori, che hanno allungato le fila di tutti quelli che negli ultimi anni sono incappati in tutti i casi di risparmio tradito che abbiamo amaramente conosciuto e di cui abbiamo parlato tante volte. Oggi però ritorniamo a fare il punto su Lehman Brothers. Vi preannuncio che domani invece ci occuperemo di Alitalia, quindi anche in questo caso del quadro che si sta maturando per ex obbligazionisti ed ex azionisti. C'è un'assemblea in aprile degli obbligazionisti, appunto, Alitalia, e quindi anche lì sarà il caso di fare un po' un punto della situazione. Comunque, i nostri ospiti di questa mattina, buongiorno e grazie di essere tornato con noi, a Vitaliano D'Angerio, collega di Plus 24 del Sole 24 Ore. Buongiorno. E buongiorno e grazie anche di essere con noi all'avvocato Giovanni Franchi, coordinatore nazionale della consulta legale della Conf Consumatori. Avvocato, benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno. 800 24 0024 è il vostro numero verde se avete necessità di fare un po' il punto della vostra situazione questa mattina. Chiamateci pure, prenotate i vostri interventi oppure scriveteci alle 349 238 6666. Bruttina la giornata di borsa, c'è un calo di 2,5 punti su Parigi e su Francoforte. Londra sta perdendo 1,5 punti, Milano perde 1,5 punti. Questa mattina abbiamo il bollettino mensile della Banca Centrale Europea che conferma che l'economia è in difficoltà, che l'inflazione continuerà a scendere, quindi questo insomma apre anche la strada a nuovi tagli dei tassi di interesse. Il bollettino conferma il rallentamento del credito nei confronti di imprese e famiglie, tema del quale torneremo ad occuparci anche a Salva Danaio nelle prossime settimane. Andiamo a vedere i temi però della seduta di borsa. Mercato che oggi premia, in Italia in particolar modo, Telecom Italia più 4%, Enel più 3,86%. Stamattina in corso di presentazione a Roma il piano industriale del gruppo, che ha confermato appunto questa operazione straordinaria sul capitale, un aumento di capitale da 8 miliardi, e il mercato stamattina è favorevole sul titolo, vi dicevo, in rialzo del 4%. Guadagnava il 6 in avvio, adesso ha rallentato un pochino. Terna più 3,60, A2A più 3,18, e poi a distanza abbiamo dei rialzi di circa 0,5 punti per Snam, Rete Gas e Seat, pagine gialle. La giornata è di nuovo brutta invece per i titoli bancari, praticamente tutti, anche se lo scivolone più forte lo mette a segno Bulgari, che sta perdendo 8,5 punti, perde 6 punti Alleanza, perde 5,5 punti Mediolanum, perde 4 punti, quasi 5 punti Mondadori, Fondiaria meno 4,79, Unicredit meno 4,76, Intesa San Paolo meno 4,70, Generali meno 4,44, Mediobanca meno 4 insieme a Finmeccanica. Insomma, questo è il quadro. L'ottimismo, anzi l'euforia di due giorni fa, si sta già perdendo per strada, ma insomma sono giornate alle quali siamo abituati, a sbalzi d'umore molto netti appunto fra gli investitori. Direi di lasciare la borsa, andiamo subito al tema di questa mattina. Allora, come promesso, facciamo il punto su tutte quelle famiglie italiane che hanno investito negli ultimi 2, 3, 4 anni, non so che arco temporale potremmo prendere, in titoli legati alla banca d'affari americana Lehman Brothers. Sentiamo. Il fallimento del colosso Lehman Brothers rischia di rimanere indigesto a molti risparmiatori italiani che più o meno consapevolmente si sono trovati in portafoglio prodotti garantiti o partecipati dalla banca statunitense andata in default lo scorso 15 settembre. Se per i sottoscrittori di polizze indicizzate gli istituti coinvolti, da Mediolanum a Unicredit Vita, da Fonsai a Banco Popolare, si sono già mossi a tutela della propria clientela, per quanto riguarda i possessori di obbligazioni Lehman, il destino appare ancora incerto. La strada per ottenere un rimborso, comunque incerto perché soggetto all'accertamento della consistenza dell'attivo patrimoniale dell'istituto, è la richiesta di insinuazione al passivo. Solo in questo modo si può infatti maturare il diritto ad essere iscritti nella lunga lista dei creditori della banca. Per tentare la via del rimborso, oltre al conciliatore bancario e alle associazioni dei consumatori, sono attive altre iniziative indipendenti che mirano a recuperare almeno in parte i risparmi investiti in prodotti Lehman. Tra queste rientra la creazione di un vero e proprio comitato nato sul web, AIROLB, Associazione Italiana Risparmiatori Obbligazionisti Lehman Brothers, che rappresenta circa 300 possessori di bond Lehman per un controvalore di 20 milioni di euro. Nessuna azione legale in vista, dunque, bensì una richiesta di transazione all'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana. In cosa consiste la proposta? Tutte le banche che hanno collocato bond Lehman ai risparmiatori dovrebbero impegnarsi a riacquistarle ad un valore di 50 attraverso l'emissione di un'obbligazione zero coupon con scadenza 2017-2018. Nei piani dei risparmiatori AIROLB, che si accollano quindi il 50% della perdita, l'ABI dovrebbe inoltre fornire assistenza completa e gratuita per tutte le pratiche necessarie per l'insinuazione al passivo. È dimostrazione del fatto che è poco cambiato per la sorte di queste famiglie, di questi risparmiatori negli ultimi mesi, lo dimostrano le numerosissime telefonate che già ci stanno arrivando. Allora cercheremo un po' di fare il punto della situazione, che come sapete è differente a seconda della titolarità del prodotto di investimento che si ha in mano. Per gli obbligazionisti la situazione è di un determinato tipo, per chi ha invece delle polizze vita, le cosiddette index linked, agganciate a titoli Lehman, la situazione è un'altra. Non è bellissima per nessuno, però è comunque una situazione diversa. Allora cominciamo intanto con Vitaliano D'Angerio, che noi abbiamo invitato perché qualche giorno fa ha scoperto che esiste un comitato che si chiama AIROLB, l'Associazione Italiana Risparmiatori Obbligazionisti Lehman Brothers, che si sta attivando appunto per tutelare un bel gruppo di risparmiatori incappati in questa bancarotta. In che modo, Vitaliano? Sì, ci sono due novità importanti, mi scuso per la voce ma sono un po' raffreddato. Come tanti di noi, no, io me la sono scampata quest'anno, speriamo bene. No, ci sono due grosse novità in questa iniziativa a mio avviso. La prima è che di fatto è un'iniziativa spontanea nata sul web, su internet, quindi la cosiddetta democrazia dal basso, no? Che si forma, e questa cosa per me è, come dire, sconvolgente, comunque è interessante soprattutto. Quindi non c'è stato un comitato promotore che magari si è attivato per ottenere delle deleghe per tutelare a pagamento delle persone, ecco. No, si è costituita nei forum persone che fregate o comunque beffate da Lehman, che si sono riunite parlando, discutendo, scambi di informazioni. C'è chi crea il sito, chi si è occupato di reperire informazioni nelle banche, insomma veramente interessante come fenomeno, e questa è la prima novità. La seconda novità è che, a differenza di molti che si lamentano e la lamentela, la lagnanza è fine a se stessa, in questo caso, visto che ci sono anche dei consulenti fra di loro, gente comunque che lavora in banca, che hanno presentato una proposta che già avete spiegato nel servizio in apertura, una proposta molto interessante e che addirittura ha generato un'interrogazione parlamentare di una senatrice del PD, Maria Letti, al ministro Tremonti per farsene carico, perché praticamente loro chiedono all'ABI di obbligazioni zero coupon a scadenza 2017 in cambio di ci fanno carico di una metà delle perdite, infatti. E in cambio l'altra metà chiedono delle emissioni di obbligazioni zero coupon 2017-2018, che poi potrebbero anche creare un mercato secondario, quindi un domani chi non vuol tenerle potrebbe anche rivenderle eventualmente. Lo Stato dovrebbe entrare con una garanzia di queste obbligazioni, garanzia gratuita per le banche, in modo tale da evitare altri costi per le banche. ovviamente poi c'è da discutere, però mi sembra ben strutturata e l'ha pensata così anche la senatrice che ha presentato l'interrogazione. Tra l'altro mi chiedo a che punto sia questa proposta di transazione, a che tavolo l'hanno presentata fino a questo momento, oltre che ai giornalisti italiani. L'hanno presentata appunto, sono andati anche in Parlamento, l'hanno presentata una serie di parlamentari. Quindi la senatrice è già partita concretamente? Sì, no, cioè, l'interrogazione è stata già presentata la settimana scorsa e c'è anche l'ABI che adesso so che insomma si sta interessando della cosa. Insomma, come dire, è una proposta costruttiva, anche perché si fanno anche carico di una parte delle perdite, come dire, si prende consapevolezza del fatto comunque che l'investimento ha dei rischi. Infatti no? Lì volevo arrivare, anche questa è una cosa molto interessante. Da quello che ti risulta, Vitaliano, come dire, le adesioni a questo progetto, a questa associazione sono ancora aperte o il numero è chiuso e loro stanno andando avanti per conto loro? Sono aperte le adesioni a questo comitato, so addirittura che dopo appunto l'uscita dell'articolo, poi so che anche l'ha ripreso il nostro sito, sono aumentate, non so bene il numero, so che da 20 milioni di controvalore di bond si è passati a 22-23, insomma, quindi sta salendo questo importo e loro non sono costituiti come associazione, sono un comitato, però contano di costituirsi come vera e propria associazione. Tra l'altro questa è una cosa molto interessante, ovviamente magari molte persone, mi riferisco a persone anziane, magari adesso ne ascolteremo una perché ne vedo già una persona pronta di 80 anni da Bologna, Ada, adesso la sento immediatamente perché il suo è un caso che mi interessa molto, però molte persone non hanno molta pratica con internet, magari come dire raggiungere questo comitato che si è costituito via web è un po' complicato, però intanto anche noi facciamo il nostro, Vitaliano, cerchiamo di informare che esiste. Esiste, ma soprattutto a differenza di altre che partono subito con le cause legali, questi qui dicono no, noi della causa legale non ci interessa, anche perché molti hanno obbligazioni per un equivalente di inferiore ai 5.000 euro, vuol dire dare i soldi soltanto pagarli in parcelle e non, quindi partono con una transazione. E infatti, anche perché come l'avvocato Giovanni Franchi ci spiega spesso e volentieri a Salvadanaio, l'azione legale vale la pena intraprenderla solo se si hanno dei margini di certezza di poter raggiungere il risultato positivo, altrimenti tutto lavoro sprecato, denaro sprecato e tempo perso. Avvocato Franchi, buongiorno ancora. Buongiorno. Allora io le faccio sentire la testimonianza di Ada che ha 80 anni, ci telefona da Bologna e vediamo se questo è un caso tipico da poter gestire con un'azione legale verso la banca che ha suggerito ad Ada un investimento di questo genere. Ada, buongiorno. Sì, buongiorno dottoressa. Le volevo dire che io ho acquistato nel 2004 da una banca 10.000 euro di obbligazioni e da un'altra banca più o meno sempre così nell'aprile del 2004 altre 10.000 euro, perché praticamente diciamo che i miei risparmi tutto sommato a me interessava avere un interesse, mi spiego, quindi nello stesso anno le persone che sono pensionate certamente insomma, amano un po' fare così e quindi di conseguenza diciamo una cosa, prima sono rimasta con la Parmalat perché naturalmente la Parmalat era non so qualcosa di eccezionale, poi dopo la Lehman come voi sapete era una banca mi pare finanziaria eccezionale, poi dopo naturalmente tu cosa fai? Ti appoggi alla banca, no? E sì, no, alla Ada banca. Mi scusi allora un attimo. La mia domanda è semplicemente questa, io credo che queste obbligazioni vorrei praticamente insinuarmi al passivo, chiedo alle banche, queste due banche e non mi danno delle risposte, mi dà abbastanza fastidio perché praticamente almeno loro potrebbero darmi delle indicazioni. Addirittura una banca mi aveva scritto nel novembre del 2008 che consigliandomi oppure praticamente dicendomi o lei può vendere i titoli della Lehman che non so nel novembre del 2008 come l'avrei potuto vedere oppure presentare la domanda di emissione al passivo in data che però verrà fissata presumibilmente dice nel mese di febbraio. Novembre allora 2000... voglio sapere questa ammissione e poi io ho sentito già parlare sì, Ada mi fa fare una domanda un attimo perché lei è partita a macchina. Ada si fermi un attimo che tanto la faccio terminare, volevo solo capire la dinamica dell'investimento in due banche diverse per lo stesso importo lei ha comprato titoli Lehman. Io ho comprato 10.000 euro da una parte, 10.000 euro di obbligazioni e 10.000 euro in una banca e 10.000 euro in un'altra e scadono nel 2014. Non poteva comprare due titoli diversi, no, proprio quelli voleva. No, ma io no, perché mi sembra strana la dinamica che è la stessa persona a due banche diverse. Io di obbligazioni ne ho di varie tipi. Sì, sì. Ah, beh, quindi almeno diversificato, perfetto. Mi avevano parlato molto bene di questa Lehman e allora praticamente siccome volevo diversificare, andare non stare solo nelle No, ma abbiamo capito perfettamente, Ada. Sì, no, intanto. Ti fidi naturalmente. Ma certo, Ada, nel 2004 nessuno mai pensava che sarebbe capitato questo disastro. Che ci ha travolto nell'ultimo anno e mezzo, soprattutto con una grande casa di investimento, una grande banca d'affari come Lehman, venisse lasciata fallire. Detto questo, quindi lei vuole sapere intanto, insomma, che come fare ad avere informazioni dalla banca, l'insinuazione al passivo perché è titolare di obbligazioni. Altro? Posso salutarla? No, né internet né niente. Io volevo avere un recapito, diciamo un indirizzo per poter eventualmente, non so, io ho sentito questo iRold, no, questo signore, così. Sì, è un'associazione. Questo comitato, però sono tutti tramite. Se però mi date, siccome non ho sentito bene, mi date, posso far vedere a qualcuno. Magari poi Ada la chiamiamo al telefono in privato, le diamo qualche indicazione in più. Posso andare dall'avvocato Franchi per questo caso? Avvocato Franchi, buongiorno. Buongiorno. Allora, beh, intanto è un investimento fatto nel 2004, per cui, come dire, era un periodo che era privo di qualsiasi sospetto, no? Allora, e Ada aveva molto ben diversificato il suo investimento, per cui ha pensato bene di andare in due banche diverse e farsi appioppare titoli Lehman, però questo è un altro problema. Come gestirebbe lei il caso di Ada? Allora, devo dire che il caso è sintomatico perché molte persone si rivolgono a noi della Confusmatori per chiedere cosa fare, specie proprio con riferimento a investimenti effettuati prima del 2007. Perché dico prima del 2007? Perché nel 2007, sebbene non fossero cambiati i rating dei titoli della Lehman, era tuttavia la Lehman, era iniziata la crisi della Lehman, quantomeno a metà del 2007 a causa dei mutui subprime. Quindi le banche avrebbero dovuto sapere qualcosa, ma prima del 2007 invece non sapevano assolutamente niente. Che fare allora? Noi siamo partiti in primo luogo con una causa contro le agenzie di rating, e più in particolare Standard & Poor's, che ha una sede in Italia, perché se l'agenzia di rating avesse cambiato il rating quando era il caso di cambiarlo, e cioè a detta del presidente della Federal Reserve Bernanke a metà del 2007, molte persone si sarebbero liberate dei titoli ed avrebbero, certo, forse non venduto alla stessa cifra, ma a una cifra sicuramente migliore di quella a cui possono vendere oggi. Ci avrebbero avuto un danno, mettiamo, intorno al 70%, se oggi riescono, intorno, scusate, al 30%, se oggi riescono anche grazie a questo comitato a prendere un altro 50%, è chiaro che potrebbero arrivare più o meno alla pari, come stiamo facendo anche con le cause Parmalat, e cioè transazioni con le banche e cause penali per cui si recuperano altri soldi. Detto questo, però, il caso di Ada adesso, come dire, esula dalla possibilità che voi possiate vincere la causa attivata contro Standard & Poor's. Andiamo un po' più nel pratico. Cosa possiamo suggerire di fare alla nostra ascoltatrice? Soprattutto il tema dell'insinuazione al passivo, che è tipico di tutti i grandi fallimenti. Ne parliamo spesso anche con Alitalia, lo faremo domani. Abbiamo parlato con Parmalat in passato. Come ci si può attivare per questo? È la banca che deve aiutare Ada a farlo, avvocato? Allora, siamo di fronte, banche, non tra l'altro, a una dichiarazione di fallimento, ma il cosiddetto Chapter 11. Il Chapter 11 è una sorta di amministrazione straordinaria prevista dalla legge americana. Io non sono un giurista americano, ma qualcosa ho letto, perché abbiamo già iniziato cause per altri titoli come Via Tele e Carrier One, quindi qualcosa so. E è la banca che di solito, anzi, che le banche stanno organizzando, stanno scrivendo a tutti i clienti dicendo che chi vuole può dare incarico alla banca perché la banca provveda alla ammissione al passivo, ammesso che di passivo si tratti, perché siamo di fronte a un chapter 11, in parola. Però ad Anna mi pare di capire che le banche a cui si è rivolta abbiano risposto in maniera non totalmente soddisfacente, cioè le hanno fatto una proposta nel novembre del 2008 di vendere il titolo secondo il prezzo che era stato maturato in quel momento, ma non ho capito neanche a novembre per una banca fallita che cosa avrebbe potuto vendere, quindi un documento di novembre non so che validità avesse, e contestualmente le hanno proposto in questo documento lei ha la possibilità di fare l'insinuazione al passivo, e poi mi pare di capire che non sono andati avanti, però sì, le hanno detto che entro febbraio può farlo, avvocato. Sì, ma devo dire che tutte le banche, tutte almeno per quelle che io sto vedendo, Unicredit, Banca Intesa, eccetera, si stanno organizzando e stanno scrivendo a tutti i possessori di titoli di Lehman Brothers che loro sono a disposizione per l'insinuazione al passivo, perché diversamente un'insinuazione al passivo in America andrebbe fatta con un avvocato americano. Che sarebbe di una spesa abominevole e colossale, quindi è chiaro che non saprei che cosa dire, non potremmo dire ci pensiamo noi, perché bisognerebbe andare in America a trovare un avvocato americano che faccia il tutto. Quindi insomma Ada prima o poi qualche informazione aggiuntiva la deve ottenere, ma siamo a marzo, cosa sto dicendo? L'insinuazione al passivo entro febbraio? Eccoci qua, stavamo controllando con Vitaliano D'Angerio i messaggi che ci stanno arrivando. Vedo che ci sono già moltissimi risparmiatori incappati nel crack Lehman che hanno già aderito all'associazione AIROLB. Adesso qua non è che volevamo fare questa pubblicità spudorata a questo comitato, a questa associazione, che tra l'altro, ricordiamolo, non è che ambisce ad ottenere un risarcimento integrale del risparmio che queste persone hanno messo in titoli Lehman. Hanno fatto delle proposte transattive e vedremo tra l'altro che risultato otterrà. Però a quanto pare molti hanno già aderito e ce lo stanno testimoniando con i propri messaggi, mentre altri ci scrivono: per l'insinuazione al passivo che cosa devo fare? Cioè, esiste già una modulistica, adesso mi sto anche confondendo con un po' di messaggi, però il concetto è questo. Un altro scrive, Stefano da Verona: l'insinuazione al passivo avviene in automatico se la mia banca non mi avvisa, come mi devo muovere? Su questo punto ci eravamo fermati, Vitaliano, nell'altra parte di Salvadanaio. Sì, io mi sento circa, ho intervistato l'avvocato di Allen Overy che sta seguendo Abby in America, e ricordo che mi aveva detto che i termini per l'insinuazione a passivo ancora non sono scaduti in America, e credo che si stia studiando lì una modalità se consentire l'insinuazione a passivo in modo automatico o meno. Pare che la prima ipotesi, quella dell'insinuazione a passivo in modo automatico per tutti gli obbligazionisti della Lehman Holding, quella americana, dovrebbe essere appunto automatico, però come dire non ne sono ancora sicuro, e comunque se non erro dovrebbe esserci un'udienza a luglio, un'udienza importante appunto per... In cui magari questi aspetti potranno essere definiti chiariti, con chiarezza. Sì. Ho acquistato online a giugno 2008 senza consigli, ma basandomi sui parametri per l'investimento, tra cui rating e patti chiari, 10.000 euro di bond Lehman Brothers. Se dovesse passare la proposta di AIROLB, ci chiede un ascoltatore, riguarderebbe solo gli iscritti al comitato o a tutti i possessori di titoli? Bisogna aderire all'iniziativa, immagino, è ovvio, loro non fanno una cosa istituzionale per cui possa valere per tutti. Adesso nel dettaglio non saprei cosa però, rispondere, infatti. Però di fatto se va avanti questa Stefano, tra l'altro, se l'interlocutore è l'ABI o le banche più in generale, è chiaro che i clienti di tutte le banche si vedranno recapitare una proposta di questo tipo e decidere se aderirvi o meno. Estenderla, quindi. E insomma siamo ancora, come dire, la fase è ancora fluida, sì. la questione è ancora fluida, totalmente aperta. Allora, avvocato Franchi, un paio di testimonianze vorrei ancora ascoltare per poi ridare la parola a lei. Maria Antonietta da Napoli, benvenuta. Pronto? Maria Antonietta? Pronto? Sì. Allora bisogna capire chi c'è. Maria Antonietta da Napoli è scesa, ecco perché è caduta, ecco perché non riusciamo. Che avevamo? Quindi Peter, scusami, abbiamo il 5 Nevio da Milano. Buongiorno. Buongiorno Deborah. Ci scusi, è qua. Linee telefoniche infuocate stamattina. Al di là di questo incidente di percorso, complimenti alla Special One di tutti i giornalisti. No, non esageri. La Murigno della radio. No, la Murigno no della radio, che sono anche juventina, io tra l'altro adesso qua scateniamo l'impossibile. Nevio, ci dica. Complimenti davvero. Grazie. Ascolti, molto. Io dal 2001 ho una polizza Roma Vita capitale garantito, non ho obbligazioni Lehman. Sì. Il punto è che io ho contestato alla banca in più di un'occasione un reddito proprio ridicolo nel percorso di questa polizza, diciamo. però la banca mi ha detto tienila. Mm-hmm. E vabbè, io non sapevo comunque di avere Lehman. Certo. Mi arriva la lettera della banca dove mi dice che sono incappato in tutta questa storia. La cifra è importante. Mm-hmm. Voglio dire, qui c'è già una transazione, perché Unicredit, sì, transite, ha preso tutto il pacchetto, fa una transazione in, sì, in modo unilaterale. Allora, loro hanno fatto praticamente per tutte le loro polizze una proposta cash, ti restituisco un tot, oppure puoi trasformare la tua polizza, si allunga la durata, se non ricordo male, vero Nevio? Perché poi io ho sotto gli occhi un po' di loro proposte, ma questa sua polizza non ci ricade. Cambiano il sottostante. Esatto. Nevio, quindi mi scusi. Allora, la mia è la Performance 7, quindi ci ricade. No, nel senso che non ce l'ho io sotto gli occhi, questo intendevo, che ne ho molte, capito, ma non ho forse la sua. Sì. Sì, sì. Allora, il punto è, qui c'è già una, ripeto, la cifra è importante. La banca fa una proposta, due proposte unilaterali. Oltretutto, se uno allunga i tempi, il rimborso è praticamente al 100% meno le cedole al lordo incassate, che sono comunque cedole ridicole. Non bisognava rivolgersi a una banca per avere quel rendimento in tutta questa sì, storia. Nel frattempo, allora, ho trovato Performance 07, sì. Allora, devo fare causa? C'è già una transazione. La causa mi deve garantire la restituzione del capitale. Del capitale che ha versato. Allora, bisogna vedere, Nevio, se ci sono i presupposti tali per cui lei ha la possibilità di ottenere qualche risultato con l'azione legale, perché, come dire, dovrebbe aver effettuato questo investimento in condizioni di totale non consapevolezza e doveva essere un investimento completamente non coerente con il suo profilo di rischio. Avvocato Franchi, allora, in quali casi, ovviamente riferendoci a Lehman Brothers, voi suggerite di intraprendere con una certa certezza di ottenere un risultato positivo l'azione legale contro la banca? Allora, bisogna dire che in questo caso è compagnia di assicurazione, ma poi è la banca, sì. È la banca. Qui siamo di fronte non a una alla vendita di titoli obbligazionari, almeno all'apparenza, ma una polizza assicurativa. Sì. Qual è la caratteristica di questa polizza assicurativa? Che dicendo che veniva fatta una polizza assicurativa venivano in realtà vendute obbligazioni. Siamo di fronte, in altre parole, a una fattispecie chiamata una cosa per l'altra. Non uso l'espressione latina per non essere incomprensibile. Ora, visto che siamo di fronte a una cosa per l'altra, che in realtà sono state vendute delle obbligazioni e non una polizza assicurativa, noi siamo dell'opinione e la giurisprudenza della stessa opinione che debba essere disciplinata dalle norme del testo unico finanziario e del regolamento consob attuativo, che impongono alcune norme formali, quali l'atto scritto, che sicuramente c'è, l'assunzione del profilo di rischio, la consegna del documento generale sui rischi dell'investimento, che molto spesso manca. Laddove mancano questi requisiti, allora si può agire nei confronti della banca e esperire una causa risarcitoria. Nel caso in cui invece questi requisiti non manchino, come altre volte accade, qui va vista caso per caso, allora c'è da pensare se accettare la proposta, che è una proposta quella della banca, non è chiusa lì, si può accettare o meno il 50% subito. Fare una valutazione, certo, ponderata, oppure procrastinare, appunto, il termine, come dicevamo, in cambio di un determinato calcolo del rendimento finale, sì. Però se mancano quegli aspetti formali, e molto spesso mancano perché le banche hanno trattato queste polizze assicurative come polizze assicurative e non come investimenti bancari, allora la causa ha un suo fondamento, tant'è che ci sono già sentenze per polizze index linked. Lei suggerirebbe al nostro ascoltatore di intraprendere questa strada, oppure di accettare, oppure di valutare attentamente le due alternative che la compagnia offre ed eventualmente accettare una di queste? Allora, io sono uno di quegli avvocati che non ritiene che la causa vada fatta sempre e comunque. Infatti. Quindi va valutata la cosa, dopodiché si potrà dare una risposta. È chiaro che un esame al buio è impossibile. Occorre un esame ponderato vedendo i documenti. Mm-hmm. Dopodiché si può cercare una soluzione. Quindi si può prendere ancora un po' di tempo. Lei invece la farebbe una causa, avvocato Franchi, assistendo una nostra ascoltatrice che non vuole essere nominata, ma ci ha scritto una lettera molto bella da Foligno, che nel, adesso recupero anche la data, febbraio 2008, se non ricordo, ha sottoscritto presso la propria banca obbligazioni Lehman. Questa signora è un ex insegnante, ha 82 anni e in un periodo già caldo per quello che riguarda la crisi finanziaria internazionale, comunque la banca le ha ben suggerito di parcheggiare tutto il suo risparmio in questi titoli. 800 24 00 24, avete ancora, se volete, una decina di minuti di tempo per prenotare i vostri interventi sulla questione Lehman Brothers, ancora apertissima per tutte le famiglie italiane che sono incappate in un investimento legato alla banca d'affari americana fallita lo scorso settembre. Avvocato Franchi, eravamo a lei per cercare di così dare un orientamento a questa ascoltatrice da Foligno che ci ha scritto ricordandoci, raccontandoci come lo scorso febbraio di un anno fa ha acquistato un'obbligazione Lehman in banca con una cedola trimestrale, un investimento triennale, quando la crisi finanziaria era pienamente esplosa. Avvocato? Sì, spiego perché io farei la causa, anzi io farei in realtà due cause, una anche a Standard & Poor's, ma prima di tutto alla banca. Ci sono diversi motivi. Il primo, è vero che il titolo era ancora in patti chiari, ciò non di meno il presidente della Federal Reserve, come ha detto prima Bernanke, disse che le banche sapevano benissimo come stavano le cose. Ergo, la banca ha venduto titoli e non poteva non sapere come stavano andando le cose a Standard & Poor's, a Lehman Brothers, e doveva quindi comunicare alla cliente. Vi è poi un altro motivo per cui può ritenersi fondata la causa risarcitoria. Ricordo anche che questa persona ha 82 anni. Appunto, vi sono due motivi. Gli 82 anni, questa persona aveva investito più del 30% del suo patrimonio in Lehman Brothers e la giurisprudenza recentissimamente ha detto che non è adeguato un investimento superiore al 30% del capitale che si ha. In quel caso la banca, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento Consob, deve ottenere l'autorizzazione del cliente sottoscritta. Visto che la banca non ha niente, questo è un motivo in più per ritenere fondata una causa. Io ritengo che poi sia fondata altresì anche la causa a Standard & Poor's, perché avrebbe dovuto dire le cose come stanno, ma questa è una cosa in più. È una cosa in più, però intanto insomma l'ascoltatrice che non vuole essere nominata, questa strada noi la suggeriamo, perché ci sembra effettivamente un investimento fatto in una condizione non italiano. Sì, volevo fare una domanda all'avvocato. Sì. Avvocato, ma aspetto che ci dicevamo prima. Riguardava un'altra cosa, i CDS, Credit Default Swap, questa sorta di polizze che si fanno tra banche e investitori istituzionali per garantirsi, assicurarsi dal default, dal fallimento di una banca, di un istituto, eccetera. Ma nel febbraio 2008 i CDS erano già a 500, a 400 punti quelli su Lehman Brothers, quindi di fatto ci sta una prova sul fallimento, una prova alta, anche evidente, no? Nelle banche che si sapeva che Lehman era a rischio anche da questi strumenti finanziari. Le risulta, avvocato, se lo ricorda quantomeno? Allora, intanto devo chiedere al dottore di mandarmi la sua partita IVA, perché gli devo fare un versamento per questo ulteriore chiarimento. Però è verissimo questa circostanza, cioè le banche in realtà, il mondo finanziario sapeva come stavano le cose. Ora io continuo a ripetere quello che disse Bernanke, perché è molto importante: non abbiamo salvato Lehman perché gli intermediari sapevano come stavano le cose, ma se lo sapevano gli intermediari americani, le banche possono dire, come fanno adesso nelle comparse di costituzione, noi non sapevamo niente, era in patti chiari? Lo possono dire chiaramente quando in realtà, come appunto diceva il dottore, tutto era fatto in modo che si sapeva benissimo come stavano le cose? Io ritengo proprio che... A proposito di chi sapeva come stavano le cose, vorrei sentire Giovanni da Napoli, che infierisce su un aspetto sul quale già ci siamo soffermati tante volte. Giovanni, ma insomma ritorniamo ancora sul punto, sulla responsabilità, chiamiamola così, del Consorzio Patti Chiari. Benvenuto. Buongiorno dottoressa, grazie per i suoi approfondimenti, sempre molto interessanti. Grazie anche al dottor D'Angelio per l'articolo di sabato su Viral, che ho trovato molto puntuale, molto coraggioso. E tra l'altro c'è anche Tommaso da Udine, che è un iscritto all'IROLB, che poi ci vuole dire qualcosa. Intanto ci dica lei, Giovanni, rapidissimo. Io volevo chiedere all'avvocato Franchi, proprio a proposito di patti chiari, se è possibile, se in qualche maniera si può giustificare l'atteggiamento delle banche che prima ti vendono le obbligazioni dicendo dormi tranquillo perché ti avvisiamo noi, e poi si sfidano da questa cosa dicendo non potevamo sapere. Oltretutto, proprio su Sole 24 Ore di venerdì c'è stato un intervento del presidente di Patti Chiari, che in buona sostanza ha detto patti chiari non serve a nulla perché non potevamo sapere, non potevamo prevedere, i CDS non hanno nessun valore. Allora io mi chiedo, mi hanno raccontato una frottola quando io sono andato ad acquistare le obbligazioni, e poi... E allora che motivo avete anche di esistere? Però guardi, noi vorremmo anche invitare prima o poi il professor Cavazzuti, se non mi ricordo male, il nuovo presidente di Patti Chiari, è questa persona qua. E tra l'altro su Patti Chiari, Vitaliano, su questa intervista anche di Cavazzuti, volevi, visto che ha chiamato in casa, io posso 24... dare una notizia che poi già ho scritto sabato in un articolo, per chi l'avesse letto, in un altro articolo. In sostanza mi risulta che, me l'hanno detto lì da Patti Chiari, che ad aprile sarà ricostituita la categoria obbligazioni a basso rischio, quella in cui era Lehman. Però criteri. Onestamente ancora non so quali sono i criteri, infatti sarebbe qualcosa da chiedere, perché a questo punto un domani ci sarà di nuovo una categoria a cui fa riferimento per l'acquisto di questi bond. Insomma, però io immagino che qualche rivisitazione anche dei criteri sarà non necessaria, indispensabile. Allora, Tommaso da Udine, eccoci. Buongiorno. Buongiorno. Sentivo prima che si parlava appunto dell'IROLB. Io sono uno dei primi iscritti a questa associazione, a questo comitato, diciamo. Sì. E, appunto, volevo fare una precisazione. La nostra associazione è assolutamente apolitica, apartitica e senza fine di lucro. Sì, l'abbiamo detto. Le iscrizioni vengono fatte in maniera gratuita e il nostro discorso viene portato avanti a favore non soltanto degli iscritti, ma a favore di tutti coloro che si trovano nelle nostre stesse condizioni. Perfetto. A questa domanda il D'Angelio mi sembrava che non fosse preparato a rispondere e pertanto sono intervenuto. Grazie per la precisazione. Grazie Tommaso, ha fatto benissimo. Io però a questo punto vorrei anche dirlo che noi in realtà i signori di IROLB li abbiamo chiamati ad intervenire, perché sennò qua pensano che Vitaliano D'Angelio sia rappresentante dell'associazione. Esatto. È che molte persone che lavorano per questo comitato non si vogliono esporre e abbiamo fatto un pochino di difficoltà, pertanto questa era anche la situazione che mi sembrava corretto precisare, perché sennò sembra che stiamo dando anche delle informazioni che sono imprecise, e basta, tutto qua. Quindi grazie a lei Tommaso. Paolo da Caserta. Buongiorno, sono Buongiorno. Paolo da Caserta. Sì. Allora le volevo dire, noi nel 2001 abbiamo sottoscritto due polizze index, una net global del valore di 50.000 euro e un'altra una multifund del valore di 15.000 euro. Sì. Tramite la banca BPL con il promotore, che chiaramente non ci aveva informato che queste polizze erano garantite dalla Lehman. Vabbè, questo diciamo che è una... Ma magari non lo sapeva neanche lui, guardi, cioè, non mi stupirebbe neanche questo, Paolo, guardi. Certo. Queste polizze le abbiamo fatto con Commercial Union, che poi è diventata, se non sbaglio, Aviva, è diventato. Sì, confermo, le confermo. Sì. Dalla Aviva. E niente, nel giugno 2008, sentendo un po' in giro il problema della Lehman, avevamo chiamato al promotore per capire se avevamo qualche prodotto assicurato dalla Lehman, e lui ci aveva dato ampie garanzie che non avevamo assolutamente nulla con la Lehman. A novembre poi abbiamo ricevuto una telefonata dal promotore che ci dice che queste due polizze, la Net Global e la Multifund, erano a garanzia Lehman. In che rapporti è adesso Paolo con questo promotore, mi scusi? No, in ottimi rapporti, perché è un amico. Ah. In ottimi rapporti, è un amico, non abbiamo problemi, nessun tipo di problema. Lui chiaramente, anche lui non era a conoscenza di questa situazione. Paolo, io sì, infatti ho due minuti di tempo, vorrei ottimizzare al massimo. Sì. Sono arrivate le lettere delle compagnie di assicurazione che le fanno una proposta su come poter gestire? Niente, assolutamente niente. La compagnia l'abbiamo cercata di contattare noi tramite questo amico che è promotore. La compagnia assolutamente ad oggi non dà nessuna risposta, nessun tipo di proposta, non ci ha comunicato nulla, ci snobba completamente, cioè non ci prende proprio in considerazione. Allora, è qua che si fa, avvocato Franchi. Devo dire che nel caso specifico c'è un argomento in più. Io purtroppo conosco Arabank, ex Arabanca, oggi Banca BPL Network, per tanti motivi, cause Carrier One e così via. Qui abbiamo di fronte un contratto che è stato concluso non nella sede della banca, perché Arabanca non aveva sedi, ma a casa dell'investitore. C'è una norma, l'articolo 30 del testo unico finanziario di LGS numero 58-98, che impone di stabilire il termine di recesso entro 7 giorni. Nei contratti non c'è mai il termine di recesso, questo è un motivo in più per fare causa alla banca, che adesso fa causa a me perché ho detto questo. Ecco, allora io adesso, tra l'altro, abbiamo terminato il nostro tempo, magari il caso di Paolo da Caserta andava argomentato un po' meglio, però qua, oltre al fatto che magari le compagnie di assicurazione comunque propongono una transazione in qualche maniera su questi prodotti, possono anche essere insoddisfacenti in certi casi, ma quantomeno si fanno vive. Nel caso di Paolo è ancora più seria la situazione, perché non sa neanche a chi rivolgersi, e qua parliamo addirittura di una polizza da 50.000 euro, l'altra non ce l'ha quantificata, ma non stiamo parlando proprio di briciole, quindi una situazione ancora più seria. Magari Paolo, se vuole scriverci a Salvadanaio, cercheremo di metterla in contatto, se vuole, con l'avvocato Franchi, e cercare anche di fare un po' di chiarezza sulla sua, di visionare un po' meglio la sua documentazione e capire cosa si può fare. Vitaliano, rapidissimo. E poi, non per tirare acqua a mio mulino, comunque su Plus 24, esatto, sì, abbiamo una rubrica di lettere, c'è l'email, e quindi chi vuole può mandarci lettere, email, e avere anche delle risposte. Mi scuso con Paolo da Padova che non riesco a fare intervenire, un consulente finanziario che voleva dire che è vergognoso che per anni si sia passato come prodotto a basso rischio questo tipo di titolo, per l'appunto. Una volta fallita, le banche non rispondono ma scaricano solo le responsabilità. Le banche sono dei negozi, dicevamo con Vitaliano D'Angerio, che devono piazzare i propri prodotti, e insomma sul tema della consulenza che fanno in maniera non certo appropriata ci siamo soffermati tante volte, e oggi non abbiamo il tempo di farlo. Comunque grazie a tutti, e ritornate con noi perché domani parliamo di Alitalia. Buona giornata.